Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiamo subito, oggi è il giorno dell'incontro tra il nostro ministro dell'economia Padoan e il commissario europeo Vestager per il tema della cosiddetta bad bank, che non è più una bad bank, ma comunque il tema resta quello delle sofferenze bancarie italiane, come fare a sgravare le banche da queste sofferenze mettendole sul mercato senza cadere nella categoria degli aiuti di Stato. C'è anche il tema dell'ILVA, è intervenuto il nostro ministro dell'economia al Parlamento europeo, ne parleremo in commissione, scusatemi, ne parleremo, ma è chiaro che la cosa più importante in questo momento riguarda capire, cercare di capire se l'Europa, con questo nuovo progetto e questa nuova proposta italiana, dirà sì oppure ancora intravede degli aiuti di Stato. L'altro tema riguarda le borse, perché? Perché questa mattina si è temuto, tra virgolette, il peggio dopo una bruttissima chiusura di Shanghai, meno 6,40%, che ha portato comunque anche Hong Kong a perdere 2,5% e Tokyo ha chiuso con meno 2,5%. Per fortuna in questo momento tutte le borse europee sono positive e Milano lo è anche un po' più delle altre. Parigi infatti guadagna l'1,1, Francoforte l'1%, Londra lo 0,50, il Dow Jones guadagna l'1,50%, invece Milano guadagna l'1,50%, intravede di nuovo quota 19.000 punti, sono soglie tecniche, soprattutto la soglia di 18.000 e quant'altro. Vanno particolarmente bene oggi i titoli bancari: UbiBanca più 8,15%, Banco Popolare più 6,40%, Popolare Emilia Romagna più 6%, UniCredit più 3,70%, Pop Milano più 2,5%, titoli bancari che sono da giorni e settimane sull'otto volante. Di nuovo i livelli di, parleremo anche di Saipem, per quello che riguarda è sotto aumento di capitale. Male invece il Monte dei Paschi oggi, meno 3,20%, male anche De Generali, meno 2,80%. Qui però non c'entra nulla dal tema della bad bank. Di nuovo le voci, che è il numero uno delle generali, Mario Greco, potrebbe lasciare, per, si dice, un contrasto con Nagel, col numero uno di Mediobanca, potrebbe lasciare le generali e andare o tornare al gruppo Zurich. La borsa, come già capitò quando queste voci furono o iniziarono a circolare, la borsa non apprezza e il titolo perde il 2,80% in una giornata in cui, devo dire, assieme al Monte dei Paschi è l'unico titolo di carattere finanziario, in questo caso assicurativo, a cedere, e a cedere anche in maniera così significativa. Euro su dollaro a quota 1,0842, quindi ci occuperemo da un lato della vicenda Ilva, dall'altro del fronte europeo sulle banche, con un aggiornamento anche sulla visita del premier iraniano a Roma. Oggi il carattere più politico-religioso, chiaramente la visita del Papa e quant'altro, però ci sono anche elementi di carattere economico, perché vi è stato anche l'incontro con gli industriali, sullo sfondo sempre i 17 miliardi di accordi che dovrebbero essere complessivamente firmati. 349-238-6666 per i vostri sms e per WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente, sì, la Cassa Depositi e Prestiti, non stavo per raccontare, comunque ha negato ogni dossier sul Monte dei Paschi di Siena. Anche per questo il titolo si è indebolito, ma non solo. Dicevo, 349-238-6666 per i vostri sms e per WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Partiamo come sempre in queste settimane dal petrolio a 30,7 dollari al barile, oggi in leggero rialzo. Mosca ha fatto sapere che potrebbe ridurre la produzione di petrolio se i prezzi dovessero mantenersi così bassi. Il presidente russo Putin si è spinto a dire che la ripresa economica in Russia potrebbe iniziare già da quest'anno, dopo un bruttissimo 2015, -3,5, -3,7% il PIL russo. Oggi però il rublo continua a essere impicchiata, vale ormai 89 euro, ossia per un euro ci vogliono 89 rubli e 81 sul dollaro. Mi chiedete della Federal Reserve, si riunisce oggi e domani la banca americana. Devo dire che la maggior parte degli analisti esclude un altro aumento dei tassi di interesse. C'è addirittura chi si chiede se averli aumentati a dicembre non sia stato un errore. Janet Yellen ha sempre detto che lo farà ancora lungo il 2016, ma sarebbe abbastanza strano, quasi impossibile, che lo faccia subito dopo il rialzo di dicembre. Ancora per quello che riguarda invece, veniamo subito ai temi di casa nostra prima di arrivare all'IVA. Oggi il ministro dell'economia Padoan ha, parlando alla commissione lavoro del Parlamento europeo, ha detto: attenzione, in Italia ormai c'è un'evidenza empirica che l'economia non solo è in ripresa ma è di migliore qualità anche sui contratti di lavoro, che sono cresciuti quelli a tempo indeterminato. C'è un'evidenza empirica crescente e anche solida del fatto che l'economia italiana non solo è in ripresa, ma è in una ripresa dal contenuto di occupazione più ricco e di migliore qualità di quello che ci sarebbe potuti aspettare da una semplice estrapolazione del tasso di crescita. È aumentata l'intensità di lavoro, è aumentata l'intensità di contratti a tempo indeterminato, quindi contratti che danno un orizzonte temporale più lungo e quindi migliorano anche la fiducia dei lavoratori in un paese. Questo non è un caso, è la conseguenza di una strategia del governo che ha voluto accompagnare un sforzo importante in tema di riforma strutturale con il cosiddetto Jobs Act, che ha cambiato in misura radicale i rapporti contrattuali, favorendo l'immissione dei giovani sul mercato del lavoro, eliminando forme di dualismo e favorendo i contratti a tempo indeterminato piuttosto che a tempo determinato e di natura precaria, coniugando, dicevo, misure strutturali con misure di carattere fiscale e incentivi alla assunzione a tempo indeterminato che stanno cominciando a dare i loro frutti. E alcune anticipazioni sulla vicenda dell'ILVA. Anzi, prima di tutto le dichiarazioni del numero uno della Cassa Depositi e Prestiti, l'amministratore delegato Fabio Gallia, che ha detto: sulle sofferenze bancarie la CDP potrebbe avere un ruolo di supporto tecnico, sappiamo, abbiamo raccontato, di garanzia. E poi ha aggiunto Gallia: abbiamo avuto tante sofferenze perché abbiamo avuto un crollo del PIL e della produzione industriale maggiore che in altri paesi. Con la garanzia della CDP si vuole permettere l'avvio di una maggiore liquidità sul mercato di compravendita di queste sofferenze e noi potremmo avere un ruolo di supporto tecnico. Poi ha escluso, come dicevo, che vi sia qualunque dossier sul caso Monte dei Paschi sul tavolo della Cassa Depositi e Prestiti. E invece, sempre sul fronte delle banche, oggi vale la pena ricordare che le nuove Banca Etruria, Banca Marche, Cassa Risparmio di Ferrara e Carichieti sono soddisfatte della prima fase per la cessione di queste quattro good bank, come si chiama adesso, visto che la parte brutta è stata levata. Soddisfatte per le manifestazioni di interesse arrivate, le attività di vendita prevedono in maniera preferenziale la cessione in un unico blocco complessivo, ma saranno valutate attentamente anche altre possibili offerte. Secondo fonti vicine alla Popolare Emilia Romagna ci sarebbe stato un interesse per rilevare la più piccola delle quattro good bank, ossia la Cassa di Risparmio di Ferrara. Ilva, allora, l'Ilva è un fronte europeo che tratteremo più avanti nel corso del programma, però oggi faccio notare che il Presidente della Commissione Industria al Senato, Massimo Mucchetti, ha detto che potrebbero chiudere entro questa sera con un rush finale il decreto che disciplina il trasferimento dell'Ilva a soggetti privati. Hanno lavorato oggi le Commissioni Industria e Ambiente del Senato, respinti tutti gli emendamenti e accolti 9 ordini del giorno. La Cassa Depositi e Prestiti, qui di nuovo Gaglia che parla, ha detto di, era in audizione alla Commissione Attività Produttive della Camera, ha detto di essere disponibile a un progetto che permetta all'azienda di tornare competitiva, ma comunque con un ruolo di minoranza. Il traffico nel frattempo a Genova questa mattina era in tilt per il corteo dei lavoratori dell'Ilva di Genova, di Cornigliano, 400 operai che hanno manifestato, anche un gruppo di studenti. Il blocco del traffico è peggiorato, le agenzie, appunto, come sapete, come sa chi ha ascoltato i nostri GR, riportavano una città tagliata in due. E domani tutti i metalmeccanici, la FIOM ha proclamato uno sciopero di tutti i metalmeccanici di Genova per difendere l'Ilva e l'accordo di programma. C'è anche un'altra manifestazione di protesta e forte. Dopo il blocco della statale, siamo in Sardegna, 131 di giovedì scorso, e il sit-in nell'aeroporto Cagliari-Elmas, e quella di centinaia di lavoratori del Sulcis, dell'Alcoa, e adesso diretti appunto a Cagliari, in via Roma, davanti al Palazzo del Consiglio regionale. Bisogna trovare una soluzione, questo è il quibus, una soluzione sui costi dell'energia che permettano a Glencore, che aveva espresso l'interesse a subentrare ad Alcoa negli impianti di produzione di alluminio, ormai famosi, ahimè, di Porto Vesme, di acquisire lo stabilimento e di farlo ripartire. Vedremo come si svilupperà anche questo fronte, mentre giovedì prossimo, dopodomani, il Consiglio dei Ministri esaminerà il disegno di legge, anche abbiamo anticipato anche noi, ben raccontato su Sole 24 Ore, sulle partite IVA e sui liberi professionisti. Moltissime le novità introdotte, e su queste novità, che poi verranno, vedremo se verranno confermate nel Consiglio dei Ministri, si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, oggi a firma del vice direttore Salvatore Padula. Ricordo che sono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. È ancora solo un progetto e servirà un po' di tempo per vederlo approvato definitivamente, ma già oggi possiamo dire che il disegno di legge sulle partite IVA, sui liberi professionisti, che dopo domani verrà esaminato dal Consiglio dei Ministri, avrà effetti importanti sulla vita di milioni e milioni di lavoratori. È una specie di Jobs Act del lavoro autonomo, forse potremmo dire uno statuto del lavoro autonomo. Arriveranno norme davvero innovative, a partire dalle tutele previste per la maternità e per i congedi parentali, nuove disposizioni a maggior tutela dei congedi e delle malattie oncologiche. Su un ambito diverso ci sarà maggior attenzione a formazione e aggiornamento professionale, prevedendo la possibilità di dedurre integralmente queste spese e non con i limiti che sono previsti oggi. Arriverà poi un'altra norma molto attesa, perché il disegno di legge sul lavoro autonomo sancirà per le partite IVA e i liberi professionisti la disciplina a regime per l'accesso ai fondi europei. In pratica queste figure verranno equiparate alle piccole e medie imprese. In pratica, grazie all'inserimento di questa norma nello statuto del lavoro autonomo, non sarà necessario rincorrere ogni anno una legge per garantire ai professionisti il diritto di partecipare ai bandi, sia per quanto riguarda la programmazione nazionale, sia per i piani di finanziamento regionale. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, primo tema che in realtà è un appendice del tema di ieri, i rapporti tra Italia e Iran, visto che è la prima visita in Europa dall'entrata in vigore dell'accordo sul nucleare, quindi la revoca delle sanzioni, quella di Hassan Rouhani, ed è la prima visita di un presidente iraniano in un paese dell'Unione Europea dopo 17 anni. 120 imprenditori e 6 ministri, l'abbiamo raccontato anche ieri. Oggi l'incontro con il Papa e poi la partecipazione all'Italy Iran Business Forum. Domani invece visiterà il Colosseo, accompagnato dal ministro attività culturali e turismo Dario Franceschini. E poi dall'8 al 10 febbraio nuova missione a Teheran con il ministro dei trasporti Graziano Del Rio, quello allo sviluppo economico Federica Guidi e all'agricoltura Maurizio Martina. Domani Rouhani andrà a Parigi e lì firmerà un accordo da 10 miliardi di euro tra le altre per una commessa per 114 Airbus. Complessivamente gli accordi siglati con l'Italia valgono 17 miliardi di euro, li cito in maniera molto rapida e probabilmente imprecisa: Saipem, due protocolli d'intesa per realizzare un gasdotto da 1800 km per migliorare le raffinerie di Tabriz e Pars Shiraz, 5 miliardi di dollari di valore. E poi ATR, la joint venture partecipata da Finmeccanica, 400 milioni di commessa per 20 ATR. Il gruppo Danieli, 5 miliardi e 700 milioni di joint venture per fornitura di macchine e di impianti. Le ferrovie, il ministro Del Rio e l'omologo iraniano che si chiama Abbas Akhondi, memorandum of understanding, perché le ferrovie dello Stato italiane svolgono il ruolo di principale partner per lo sviluppo della rete ferroviaria iraniana. Gavio, Itinera, che è la società di costruzione del gruppo Gavio, ha firmato intese per lo sviluppo congiunto di grandi progetti infrastrutturali, in particolare nel trasporto ferroviario, valore complessivo fino a 4 miliardi di euro. E poi la Isotta Fraschini, un nome che evoca altri tempi, è una controllata di Fincantieri, intesa con Wagon Parts per 70 locomotori e con Arca Tairat Kesmen per 600 propulsori marini. Volevo dare anche una risposta a chi ieri diceva non si possono fare accordi, non voglio tornare sul tema con un paese come l'Iran, a parte il fatto che allora andiamo a rivedere tanti altri scambi commerciali. Se guardiamo la libertà, parliamo delle donne per esempio, beh, c'è anche l'Arabia Saudita, il Qatar, non mi sembra che lì gli Emirati Arabi ci facciamo molti problemi, a mio avviso giustamente, nel senso che un paese poi si dà la legislazione che vuole, ma tu in questo caso stai facendo affari, oppure decidiamo che c'è un codice etico per cui non si fanno affari se non con le democrazie come la nostra. Però attenzione che c'è anche un altro principio, come facciamo notare vari osservatori, che probabilmente un Iran più aperto al mondo occidentale, in cui riparte anche l'economia, beh, noi sappiamo che storicamente quello è anche un modo per garantire maggiore libertà e processi di modernizzazione, chiamiamoli così. Comunque oggi il ministro degli esteri Paolo Gentiloni, ha detto finalmente si è realizzato il sogno di Enrico Mattei di un assiduo dialogo politico e collaborazione economica tra Roma e Teheran. Parlando dell'impegno di Eni in Iran negli anni 50 del secolo scorso, Enrico Mattei ricordava che, cito, quando cominciammo le nostre attività in Iran eravamo dei sognatori, fine della citazione. Quel sogno si è poi trasformato in realtà, nella realtà di un assiduo dialogo politico e di una fortissima cooperazione economica tra i due paesi. Sulla scorta di questa eredità, negli ultimi anni l'Italia ha svolto un ruolo, si potrebbe dire, di apripista, anche nel processo di progressiva normalizzazione dei rapporti tra Iran e Occidente. Dopo l'insediamento del presidente Rouhani, italiano è stato il primo esponente governativo occidentale ad andare a Teheran, italiano fu il primo capo di governo occidentale a incontrare lo stesso presidente Rouhani a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e italiano fu il primo ministro degli esteri occidentale in visita a Teheran. Abbiamo mantenuto un tale livello di contatti da poter affermare che oggi l'Italia non sta tornando in Iran, in quanto le nostre istituzioni e le nostre aziende non hanno mai veramente lasciato il paese. E poi gli accordi. La presidente dell'ENI, Emma Marcegaglia, al microfono del nostro Vincenzo Miglietta, ha detto: guardiamo con attenzione al mercato chiaramente iraniano, dove, come ricordava Gentiloni, siamo stati i primi. Adesso dobbiamo capire le bozze dei modelli contrattuali per le compagnie petrolifere che lì vogliono investire. L'ENI è in Iran da sempre, si dice che ancora ci siano le foto di Mattei, no? nei vari uffici delle compagnie petrolifere nazionali. Ovviamente noi stiamo guardando, l'ENI sta guardando, bisogna capire in dettaglio qual è il tipo di contratto che loro proporranno. Già alcune cose sono state dette e quindi siamo interessati, aspettiamo dettagli per capire, diciamo, che tipo di condizioni ci saranno. Ecco, con il prezzo del petrolio così basso, l'Iran può diventare un altro mercato importante di approvvigionamento, o pensa che comunque la realtà dell'ENI è così grande che non è così fondamentale? La diversificazione delle fonti è sempre positiva. Adesso c'è molta discussione su quanto potrà avere, quanto sarà l'impatto, quale sarà l'impatto della produzione dell'Iran sul petrolio mondiale, quanto potrà impattare anche sui prezzi ulteriori. Il nostro punto di vista è che ci vorrà tempo, diciamo, perché comunque c'è bisogno di molti investimenti. Sono stati stimati circa 150 miliardi di euro di investimenti necessari per ammodernare tutte le infrastrutture per produrre petrolio, quindi l'impatto ci sarà, ma probabilmente sarà più graduale nel tempo rispetto a quello fosse previsto. Il prezzo così basso del petrolio può mettere in difficoltà un colosso come l'ENI? No, io direi no. Ovviamente il momento è complesso perché è un prezzo bassissimo, oltretutto i fondamentali, secondo il nostro punto di vista, non dicono che il prezzo dovrebbe essere questo, il prezzo dovrebbe essere più alto. Ovviamente anche per noi, diciamo, il momento non è semplice, però noi abbiamo tutti i progetti cosiddetti convenzionali, quindi a basso costo, quindi siamo posizionati meglio rispetto ad altre compagnie petrolifere. Abbiamo già tagliato i costi operativi, continueremo a farli, ridurremo anche alcuni investimenti, stando però attenti a non compromettere la crescita del futuro. Quindi ci saranno un anno, forse un anno e mezzo ancora difficile, ma l'ENI ha tutta la forza, la competenza e anche la forza patrimoniale per resistere in un momento come questo. E che vi sia un interesse di tutto il mondo delle imprese per la nuova frontiera iraniana, anche perché è inutile girarci attorno, il 2016 è un anno in cui avremo difficoltà nelle esportazioni in Brasile, la Russia, dice Putin, che tornerà, ma ci sono le controsanzioni, è un'economia in recessione, la Cina, abbiamo già visto cosa vuol dire un rallentamento, per cui avere anche un nuovo canale di sbocco per le nostre esportazioni non ci fa male. Ma dicevo che riguardi tante imprese italiane è la convinzione del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, che ha sottolineato la voglia di riprendere le file delle alleanze e le collaborazioni con Teheran. Tra l'altro ha anche ricordato Squinzi che ci sono tanti settori in cui può intervenire l'Italia, ricordando poi la missione del prossimo 8 e 10 febbraio, quella a cui facevo riferimento assieme a Del Rio, Federica Guidi e al Ministro dell'Agricoltura Martina. Penso che ce ne siano tantissime che, oltre che essere pronte, sono desiderose di andare in Iran. Il mio gruppo stesso, che comunque fornisce già sostenuto quantità significative dallo stabilimento di Dubai, si sta preparando per fare un investimento produttivo. E c'erano 7 miliardi di esportazioni prima delle sanzioni. Il primissimo obiettivo è quello, e poi credo che si possa andare molto avanti. Confindustria considera l'Iran uno dei paesi prioritari per l'interscambio per i prossimi anni e abbiamo pianificato di svolgere altre missioni economiche sempre più mirate che coinvolgeranno i principali settori della nostra economia. L'evoluzione della situazione geopolitica renderà sempre più la Repubblica Islamica dell'Iran uno hub importante per favorire l'interscambio commerciale in tutta l'area, grazie alla stabilità politica ed economica, e renderanno il Paese una destinazione strategica, con posizione di rilievo in un contesto geografico dalle elevate potenzialità sia in termini di investimenti che di consumi. Sono molti i settori promettenti, quali quelli ospedaliero, dell'automotive, dell'oil and gas, delle infrastrutture, dell'agricoltura, e sono fiducioso che sapremo cogliere appieno tutte le opportunità che si presenteranno. Auspico che il 2016 sia un anno decisivo per dare un forte impulso alle relazioni commerciali tra l'Iran e l'Italia, nella convinzione che potremmo realizzare insieme piccoli e grandi progetti di interesse reciproco e contribuire così fattivamente allo sviluppo industriale dei nostri rispettivi paesi. Allora, adesso è il momento del meteo e della pubblicità. Intanto la borsa, vi do la chiusura definitiva di Piazza Affari, più 1,57% con le banche popolari tranne il Monte dei Paschi in evidenza, UbiBanca più 8,60, Banco Popolare più 6,50, Pop Emilia Romagna più 5,60, Unicredit più 3,80, molto bene oggi anche Fiat più 6,40%, e CNH Industrial più 2,80%. Devo dire che invece Monte dei Paschi perde il 3,5%, e le generali sulle voci dell'uscita di Mario Greco hanno chiuso con un meno 3%. Ripartiremo da qua dopo il meteo e la pubblicità, perché oggi è la giornata delle banche, diciamo, visto l'incontro di Padoan con il commissario europeo Vestager, e avremo anche l'approfondimento che annunciavo sull'Ilva. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta. Sto guardando alcune notizie. In effetti sta, dunque, allora, la vicenda Greco, le generali, adesso ne parleremo, faremo un approfondimento apposito a questo punto, perché è appena uscita un'ANSA che dice che secondo fonti interne la compagnia, l'amministratore delegato dei generali Mario Greco risulta non disponibile a un rinnovo del mandato al vertice della compagnia, anche se al momento non avrebbe formalizzato una lettera di dimissioni. Però insomma, diciamo che se già dici che non sei disponibile a restare quando scade il tuo mandato, boh, insomma, è abbastanza probabile che tu ne possa andare, la mettiamo così. E segnalo anche il sito del Sole 24 Ore, che adesso raggiungeremo la collega Laura Galvagni, che cita altre indiscrezioni, titola generali Mario Greco verso l'uscita. È uno di quei casi in cui il nome del manager si lega molto ai destini del gruppo, a torto o ragione, ma è così. E il titolo infatti ha perso il 3,15%. Guido Maurino, Radio Colle sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Ne parleremo più avanti. Mentre bene oggi, al di là del Monte dei Paschi che ha perso il 3%, tutte le banche popolari, UbiBanca più 8,5%, Banco Popolare più 6,20%, Pop Emilia Romagna più 5,80%, Unicredit più 4%, Pop Milano più 2,5%. Partiamo da lì. Sì, allora sono andate bene tutte le banche oggi, in ripresa dopo l'andamento di ieri, in parte perché si attende con fiducia quello che deve avvenire oggi pomeriggio, cioè l'incontro fra il Ministro dell'Economia Padoan con la Commissione Europea sulla Bad Bank. In particolare poi per quello che riguarda UbiBanca e BPM c'è anche, come dire, la frenata che è arrivata ieri direttamente dall'amministratore delegato di Banca Popolare di Milano Castagna su una possibile, ipotizzata più volte sui giornali, fusione a tre fra UbiBanca Popolare di Milano e Monte dei Paschi, che aveva penalizzato in passato soprattutto Ubi. Questa frenata, il fatto che sia stata esclusa questo tipo di operazione ha consentito oggi a Ubi di guadagnare terreno, di essere il titolo migliore sul FTSE MIB con un più 8,56%, bene anche, come ricordavi tu, Popolare di Milano più 2,54%, mentre il fatto che questo matrimonio non si faccia ha pesato su Monte dei Paschi, che ha ceduto il 3,03%. Ancora sugli altri titoli invece oggi in evidenza Fiat. Sì, Fiat ha guadagnato il 6,13%, è stata una giornata molto positiva perché il mercato scommette sui conti che il gruppo dovrà dare domani. L'amministratore delegato Marchione aveva già detto che saranno nella parte alta della forchetta indicata dal mercato. Qualcuno si aspetta qualche sorpresa positiva, in particolare sul mercato europeo e sul mercato statunitense, e poi si guarderà molto anche alle indicazioni che verranno fornite sul 2016. Ancora, visto che parlavamo di Iran, abbiamo parlato di Iran fino adesso, si sono mossi bene i titoli Fincantieri da un lato e anche Eni e Tenaris, poi diamo anche un commento su Saipem. Sì, allora per quello che riguarda Fincantieri, oggi ha annunciato che di aver siglato una serie di accordi con l'Iran che in prospettiva potrebbero portare a commesse del valore di alcune centinaia di milioni di euro. Il titolo ha guadagnato il 7,88%, dopo essere arrivato a guadagnare anche oltre il 10%. Per quello che riguarda poi Eni e Tenaris, che oggi si sono ben comportate guadagnando il 2,11%, il 2,20%, il merito è soprattutto di una ripresa del prezzo del petrolio che a New York sta guadagnando oltre il 3%, si è riportato oltre i $31 al barile e quindi sta un po' trainando alcuni acquisti sulle società del settore. Per quello che riguarda poi i migliori e i peggiori, tra l'altro su Atlantia abbiamo visto un andamento un po' altalenante oggi, c'erano le voci di un'offerta per acquisire London City Airport. Sì, proprio sull'onda di queste indiscrezioni oggi il titolo aveva pagato soprattutto in mattinata, poi in realtà è riuscito a chiudere in positivo, più 0,21%, c'è un po' di incertezza sulla questione perché è vero che si tratta di uno scalo particolarmente prestigioso, soprattutto che vanta una concessione a tempo indefinito, però il prezzo a cui potrebbe aggiudicare l'operazione è considerato molto elevato perché si parla di 2 miliardi di sterline, la stessa Atlantia infatti starebbe cercando alcuni partner con cui completare l'operazione. Allora, migliori e peggiori, prima di arrivare poi alle generali e alla vicenda delle banche, dell'IVA e poi delle banche, dicevo migliori e peggiori oggi sul listino: Media Contact più 19%, Invest più 11%, Mutui Online più 10%, e poi appunto UbiBanca più 8,5 e Fincantieri come tu ricordavi, e anche Astaldi più 7%. Fronte opposto invece, se ho ben visto, De Longhi meno 7,60, Agronomia meno 4,60, Stefanelli meno 4, D'Amico meno 3,80%. Grazie a Guido Maurino, Radio Corriere del Sole 24 Ore, traffico e poi generali e l'Ilva. Focus Economia. Allora, mi sono beccato anche del rinco qualcosa, perché in effetti, scusa, stavo guardando le notizie sulle generali. Guido Maurino, pure tu però, aiutami, mancava Saipem, te l'ho pure chiesta. Pronto, sì, Guido? Eccoci, sì, no. Eccomi. No, hai ragione. Mi hanno bombardato anch'io durante il traffico gli ascoltatori su Saipem, avete ragione. E quando avete ragione non c'è nulla da aggiungere. Saipem sul... sotto aumento di capitale, prego. Sì, allora, ancora una giornata negativa. Oggi sono andate giù anche le azioni, che hanno ceduto l'1,04% a 0,62 euro, ma sono andate giù i diritti in modo molto più significativo perché hanno perso un altro meno 29,12%. Sostanzialmente rispetto ai valori che vedevamo venerdì, prima che ci fosse l'avvio dell'operazione, il titolo è caduto di circa un terzo, di circa il 33%, e a questi prezzi possiamo anche aggiungere che conviene comunque comprare i diritti, cioè se dovessimo fare la proporzione, i diritti danno, come dire, appunto un diritto ad acquistare azioni Saipem a un prezzo di 0,45 euro per azione, mentre l'azione stessa vale 0,62. Ah, okay. Ecco, e quindi dici comunque vale comprare i diritti. Ancora, dicevo, migliore e peggiore, l'euro su dollaro 1,0849. Poi arriviamo anche alle generali, perché vedo che stanno uscendo appunto altre agenzie, vediamo di fare un pochino di metterle un po' in ordine. E nel ringraziare Guido Marino, allora passiamo subito al tema dell'IVA, che è un altro tema in cui riguarda l'Europa, ma è arrivato ieri via libera da Bruxelles per i lavori che riguardano le bonifiche ambientali e a tutela della salute pubblica. Questo è uno dei dossier che oggi il Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan discuterà, assieme a quello molto più importante, diciamo anche perché molto più atteso dalle banche, non più importante perché l'IVA non conti, con il commissario alla concorrenza Margrethe Vestager. Domenico Palmiotti del Sole 24 Ore da Taranto, buonasera. Buonasera Sebastiano. Buonasera. Allora, prima di tutto vi vorrei fare ascoltare uno scambio rapidissimo che ha avuto il nostro Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan. Parlava in Commissione Europea Si è un po' seccato con un'eurodeputata britannica, Jane Collins, non è un'attrice, fa parte del UKIP, che durante il dibattito ha detto sulla proposta di Padoan di creare un sussidio antidisoccupazione, ha paragonato la condotta del governo italiano con l'Ilva a quella del governo britannico che chiedeva l'elemosina a Bruxelles quando chiedeva via libera dalla Commissione agli aiuti per le sue acciaierie. Padoan si è arrabbiato e le ha risposto così e poi se n'è andato. Honorable Collins, Italy does not go begging around on the bowl on anything. Please remember that. Lo traduco perché tanto era così breve. Ha detto: l'Italia non va a fare begging, non va a fare elemosina da nessuno, onorevoli colleghi, ficcatelo in testa, questo lo aggiungo io, e si è alzato e se n'è andato. Al di là dell'elemosina o no, ieri domenico è arrivata una notizia importante per l'Ilva, mentre oggi sono continuate le proteste, come raccontavamo in apertura, dei lavoratori a Genova. Sì, Genova in questo momento è il fronte acceso, perché da un paio di giorni i lavoratori di Genova Gorlignano, stanno protestando perché temono più che la continuità dell'Ilva, dove cosa avverrà con la cessione prevista per giugno prossimo, la continuità dell'accordo di programma. Infatti c'è un accordo di programma per lo stabilimento di Cornigliano che prevede delle garanzie occupazionali, delle garanzie anche per quanto riguarda gli investimenti, i lavoratori temono che questo accordo di programma adesso possa essere messo in discussione, ma proprio oggi il ministro Guidi ha ribadito che il governo sta lavorando per il bilancio di tutto il gruppo Genova e Taranto, perché Genova non ha senso, non si mantiene in piedi se non viene alimentata dalle produzioni di Taranto. Quindi la soluzione a cui il governo lavora, ha detto proprio oggi il ministro Guidi, è globale. Come dicevi tu, c'è intanto uno spiraglio sul fronte dell'Unione Europea. Appena una settimana fa l'Unione Europea, con il commissario Vestager, aveva di fatto formalizzato l'avvio di quella inchiesta sugli aiuti di Stato per quanto riguarda le risorse arrivate all'Ilva. Ebbene, oggi si è appreso di un incontro che c'è stato ieri tra il sottosegretario agli affari europei Sandro Gozi e il commissario Vestager, e è emerso in sostanza che l'Unione Europea non guarda in modo negativo al fatto che lo Stato possa accollarsi i costi della bonifica certo, fare gli interventi ambientali. D'altra parte, questa era anche la linea di difesa dell'Italia quando si apprese un mese fa che l'Unione Europea stava mettendo sotto la lente le misure finanziarie per l'Ilva. Il governo ha sempre detto: guardate che le regole europee consentono che lo Stato possa intervenire in materia di bonifica ambientale. Quindi questa linea è stata riconosciuta. Ecco, allora, no, per far capire a tutti, sono due fronti: quello europeo, ieri via libera di Bruxelles per le bonifiche ambientali, e oggi vedremo quale sarà anche su questo tema il risultato dell'incontro col commissario europeo. In Senato italiano invece, come ha dichiarato appunto il presidente Commissione Industria Massimo Mucchetti, potrebbero farcela già oggi a votare il decreto legge che non riguarda le bonifiche, ma riguarda la vendita dell'Ilva. Per il decreto ormai è questione di ore, o viene approvato questa sera o tutt'al più domani mattina. Ecco, raccontiamo però anche perché stanno protestando in maniera così forte, visto che hanno bloccato Genova questa mattina, i lavoratori dell'Ilva di Cornigliano. Stanno protestando appunto, come dicevo prima, perché loro temono che lo stabilimento risulti indebolito da questo discorso della cessione e soprattutto non ci sia continuità per quanto riguarda l'accordo di programma che prevede una serie di operazioni di rilancio industriale, di nuovi investimenti. E lo sciopero però sta vedendo protagonista solo alcuni istituti sindacali, per esempio la FIM e la UILM si sono dissociati invece dall'iniziativa assunta dalla FIOM CGIL. Domani a Genova è prevista un'altra manifestazione di protesta. La situazione di Genova era già in tensione nei giorni scorsi, tant'è che nel decreto legge che ora è al Senato, già alla Camera sono state introdotte delle misure per aumentare la copertura dei contratti di solidarietà per i lavoratori di Genova e Cornigliano, proprio perché c'erano delle situazioni molto difficili. Allora, poi ti chiederò se quali potrebbero essere i compratori, però vorrei far ascoltare un audio molto breve delle proteste dei lavoratori di Cornigliano. Oggi il segretario genovese della FIOM, Bruno Manganaro, ha detto che domani protesteranno tutti, scenderanno in piazza tutti gli aderenti alla FIOM. Finché non avremo delle risposte, come dire, degli impegni precisi. Ci sono stati degli accordi che non sono stati rispettati dal governo e stanno prendendo tempo, non si sa per cosa. Finché abbiamo l'accordo di programma prevede zero licenziamenti, nessuna possibilità di essere spostati e di mantenere tutto il nostro organico. In caso di vendita non abbiamo più nessuna tutela. Il governo vuole vendere un'azienda a compratori che hanno già detto che non sono disponibili a garantire né l'occupazione né la salute dei lavoratori. I lavoratori qui giustamente respingono questo diktat. Vabbè, anche il ministro alle attività produttive Federica Guidi, sempre sull'Ilva. Quello che il governo ha fatto nell'ultimo decreto, che è ancora in queste ore in conversione, è stato fatto proprio per dare a quegli operai continuità rispetto a un accordo di programma che, se non vado male, è stato firmato nel 1995. Nel frattempo sono cambiate molte cose. Per il futuro, e questo naturalmente il futuro non è solo Genova, ma evidentemente è tutto il complesso di Ilva, che naturalmente vede in Taranto anche non solo il numero più elevato, diciamo così, di dipendenti, ma anche, diciamo, lo stabilimento da cui poi Genova riceve la materia da lavorare. Ecco, il governo ha fatto in questi due anni e sta continuando a fare quello che ha sempre dichiarato, cioè cercare di rimettere velocemente tutto il complesso Ilva sul mercato, rilanciarlo, fare un turnaround complesso, complicato, soprattutto mantenere gli giusti impegni per quello che riguarda l'aspetto ambientale e rilanciare senza perdere la strategicità di un impianto siderurgico. Allora, Domenico Palmiotti, ce la fai a dirmi in 30 secondi chi sono i compratori o ci sentiamo alle 18 e 6 minuti? In 30 secondi, le manifestazioni di interesse sono in corso, si fanno i nomi di grandi gruppi internazionali, da ArcelorMittal ai coreani di POSCO, poi ci dovrebbe essere una nutrita presenza italiana che va da Marcegaglia ad Arvedi, da Eusider a Dottor Enghi di Ravenna, con un ruolo anche di minoranza intorno al 40% di Cassa Depositi e Prestiti, però la cordata è tutta da costruire, siamo ancora alle prime battute. Allora, nel ringraziare Domenico Palmiotti in collegamento con noi da Taranto, rispondo anche a un ascoltatore che mi dice: molte volte la sento sospirare dolorosamente Barisoni e la comprendo, è difficile omettere la verità. No, è difficile non sospirare quando ricevo certi messaggi. Comunque, GR24. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Sechi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Ciao a tutti, sono Enrico Ruggeri, anche questa settimana grandi storie al Falco e il Gabbiano. La storia di una persona che ha vissuto un grande amore in uno scenario molto controverso, Claretta Petacci. La disperata vita del più grande bassista di tutti i tempi, Jaco Pastorius. Nancy Kerrigan e il giallo che corre nel ghiaccio sui pattini. 25 anni dopo la guerra in Kuwait, la storia di Maurizio Cocciolone, il pilota che visse 47 giorni terribili in mano agli iracheni. Un match tra il tennis e la droga vissuto fino all'ultimo, la storia di Vitas Gerulaitis. Tutti i giorni alle 15.30, naturalmente su Radio 24, vi aspetto con Il Falco e il Gabbiano. Focus Economia. Di nuovo in diretta alle 18:09 con Sebastiano Barisoni. Prima di arrivare all'incontro per quello che sta uscendo, diciamo, tra il ministro Padoan e il commissario Vestager sul tema della bad bank e quindi le sofferenze bancarie, ma anche dell'Ilva, Vorrei fare un piccolissimo approfondimento su quello che sta succedendo, diciamo, sulle generali. Nulla di drammatico, nel senso che i manager, anche i top manager, vengono e vanno. Però è interessante la reazione del titolo, meno 3,15% in un giorno in cui tutti i titoli bancari e assicurativi sono andati bene tranne il Monte dei Paschi. E allora Laura Galvagni del Sole 24 Ore, che sta aggiornando, se ho ben visto, anche il sito, mi sembra che ormai da più parti si dia Mario Greco verso l'uscita. Ti chiedo conferma di questo, ma anche se il motivo sembrano essere gli attriti con il numero uno di Mediobanca, e mi riferisco a Alberto Nagel. Buonasera. No, allora, già ridi. Sì. No, allora sicuramente ormai, come dire, le voci si rincorrevano da tempo, sembra che ormai si sia trovata la quadra. Mario Greco probabilmente uscirà dalle generali. Ora è da capire meglio la modalità, nel senso che non si è ancora capito se l'amministratore delegato darà le dimissioni oppure semplicemente se deciderà di non rinnovare il mandato e quindi guiderà il gruppo fino alla scadenza, ossia fino all'approvazione del bilancio 2015. Ma è quindi confermato che lui ha l'indiscrezione che abbia detto sostanzialmente che non è disponibile a un nuovo mandato, che già è il preludio. Esatto, non ci sono ancora evidentemente conferme ufficiali. Immagino che a breve Generali emetterà una nota a commento di tutte le indiscrezioni che sono circolate oggi, però la sensazione è che si vada sostanzialmente in questa direzione, ossia che Mario Greco lasci l'Italia e si presume possa arrivare a Zurich. Il motivo sembra il rapporto con gli azionisti? Ma allora, in realtà c'è stata una trattativa abbastanza lunga per il rinnovo del mandato Greco. Tutti gli azionisti gli hanno confermato la fiducia fin dal giugno scorso, quando si è presentato sostanzialmente il tema della conferma e del rinnovo della sua carica. Gli è stata confermata la fiducia, si è deciso in quella sede di mettersi al tavolo con lui per rivedere anche quelle che erano le condizioni economiche del contratto. Si pensava che potesse essere trovata una quadra in tempi stretti, cosa che non è avvenuta. A dicembre il tema era ancora sul tavolo. Questo perché probabilmente esisteva o comunque si presumeva che potesse iniziare anche il corteggiamento da parte di un'altra grande compagnia assicurativa, che era appunto Zurich, il cui amministratore delegato ha lasciato a inizio dicembre. Mario Greco era già stato in Zurich, certo. È sicuramente una compagnia internazionale e rilevante nel settore assicurativo, e presumibilmente si può ipotizzare che Greco possa anche aver deciso di affrontare una nuova avventura. Sì, no, è interessante la reazione della borsa, diciamo che meno 3,15% in questa giornata, come già era capitato quando iniziarono a circolare le prime indiscrezioni. Beh, è un messaggio inequivocabile sul giudizio positivo evidentemente degli investitori su Mario Greco e negativo su una sua uscita. Sicuramente Greco, come hanno spesso più volte ribadito anche i soci, ha fatto un grande lavoro alle generali. Nei 3 anni e più che è stato alla guida ha portato a compimento tutti quelli che erano gli obiettivi del piano di turnaround che lui aveva approvato. Un altro turnaround. No, perché prima il ministro Guidi diceva turnaround e gli ascoltatori si sono lamentati. Okay. Comunque di far svoltare, diciamo. Esattamente, di far svoltare il gruppo, che era una necessità per le generali in quella fase, in quel momento particolare. Lui ci è riuscito, ha portato a casa i capitali necessari per rimettere sui binari giusti l'azienda e farla ripartire. Ha poi lanciato un nuovo piano, che era quello di trasformare le generali nella più grande retail company d'Europa, e questo piano l'ha presentato nella primavera scorsa. È un piano particolarmente importante per le generali, è un piano per certi aspetti anche visionario, e quindi buona parte della realizzazione di quel piano è possibile che gli investitori l'attribuiscono proprio alla presenza e alla figura di Greco alla guida. C'è da dire che con l'arrivo di Greco era stata cambiata tutta la prima linea del gruppo, tutte persone che avevano la fiducia del CEO e tutte persone che in realtà nell'azienda resteranno, e quindi insomma, come dicevi giustamente tu, i manager vanno e vengono. Sì, non sono i manager. Allora, no. Grazie anche a Laura Galvagni del Sole 24 Ore, e adesso invece iniziamo a cercare di capire, ripeto, l'Ilva oggi ha due fronti, quello del nostro Senato e quindi del Via Libera che dovrebbe arrivare in serata per l'inizio dell'ipotesi di l'inizio della privatizzazione dell'Ilva. e quindi della cessione dell'ILVA con le varie offerte che ricordava prima il collega, mentre il fronte europeo riguarda, dopo un via libera di fatto di ieri della Commissione europea sul fronte ILVA e quindi bonifica, riguarderà anche, diciamo, la conferma che appunto non vi saranno aiuti di Stato. Però è inutile girarci attorno, il tema grosso sta sulla ipotesi di bad bank, che non è più una bad bank, da quello che abbiamo capito sarebbero un insieme di società in cui verrebbero, che ogni banca creerebbe, in cui verrebbero cartolarizzati le sofferenze che questa banca ha, e poi si cercherebbe di venderle sul mercato avendo come garanzia, ma senza che questo sia un aiuto di Stato sul prezzo, lo Stato italiano, o meglio la Cassa Depositi e Prestiti. Abbiamo spiegato molte volte che ci sono società specializzate nell'acquistare sofferenze, quindi crediti inesigibili, perché a un prezzo di sconto, e cercano di guadagnarci poi su quello che riescono effettivamente a esigere e a ottenere di questo credito. Dopo il traffico, però, insomma, quante possibilità ci sono a questo punto che l'Unione Europea, dopo un anno e passa che stiamo trattando, ci dia l'ok dopo il traffico. Focus Economia. Allora, alcune piccole, diciamo, sintesi. Noi abbiamo 200 miliardi di sofferenze bancarie lorde. In realtà quelle ancora non iscritte a bilancio correttamente dovrebbero essere intorno agli 87 miliardi. Il livello di copertura delle banche italiane comunque è buono, come ha scritto più volte Sole 24 Ore, quindi il 46% contro una media europea del 48,8%. Questo è il fronte sofferenze bancarie. Allora, abbandonata l'ipotesi di una unica grande bad bank, un unico grande soggetto che assorbisse queste sofferenze, il governo ha proposto che ogni banca costituisca, come ricordavo prima, una società veicolo, come si chiama in gergo, dove verranno fatti confluire i crediti deteriorati, quelli che non si riescono più a riavere indietro. Per finanziarsi, questa società si finanzierà sul mercato emettendo obbligazioni di varia natura, quindi sia senior che saranno più sicure ma meno redditizie che junior. Per le emissioni senior le banche potranno chiedere, pagando, ecco perché dovrebbe essere aggirata l'ipotesi di aiuti di Stato, dovranno pagare per avere una garanzia pubblica attraverso la Cassa Depositi e Prestiti. In questo modo qual è il vantaggio? Tu paghi come se fosse una polizza assicurativa, la CDP, quindi non è un aiuto di Stato perché tu la paghi. Ma il vantaggio che puoi offrire queste obbligazioni senior che dentro hanno il credito deteriorato a un tasso di interesse più basso, perché c'è comunque, sei stato assicurato dalla Cassa Depositi e Prestiti. Se ho ben capito, l'elemento di trattativa con Bruxelles riguarda il prezzo a cui deve essere concessa questa garanzia, e quindi indirettamente quello che sarà il prezzo poi, il rendimento di questi, come li chiamano in inglese, non performing loans, questi crediti deteriorati. Allora, dottor Mario Seminero, economista, curatore di un blog molto seguito, già il nostro ospite altre volte, il blog si chiama fastidio.net, buonasera. Buonasera. Se fosse confermato questo impianto che ho appena descritto, dall'incontro con, perché dobbiamo usare i se perché non sta uscendo ancora nessuna agenzia, si presumeva tra le 18 e le 18:30, insomma, vedremo. Se dovesse essere confermato questo tipo di accordo, secondo lei si sarebbe trovata una quadratura del cerchio? Chiaro che nessuno poteva immaginare il migliore dei mondi possibili, l'Italia avrebbe preferito fare un'altra operazione, ma insomma con questo tipo di dettaglio, per cui tu avrai la garanzia della Cassa Depositi e Prestiti sulle obbligazioni strutturate senior, ma la devi pagare questa garanzia. Sì, ma io diciamo che per come è strutturato, per quelle che sono le ipotesi in realtà di strutturazione dell'accordo, a me sfugge ancora moltissimo, perché se si ipotizza una cartolarizzazione delle sofferenze, quindi le sofferenze vengono impacchettate in obbligazioni, che vengono fatte in tranche. La tranche, come diceva lei, più senior è quella che ha minore rischio, maggiore rating e di conseguenza minore rendimento, poi c'è la cosiddetta mezzanina che è più rischiosa a livello intermedio e poi c'è la equity tranche che è quella a maggiore rischio e rendimento. Però una simile strutturazione è già fattibile oggi, si può fare oggi perfettamente in condizioni di mercato, basta intendersi sul prezzo, non solo, se la garanzia della Cassa Depositi e Prestiti verrà concessa esclusivamente sulla tranche senior. Non dimentichiamo che la tranche senior è quella che già di suo rende meno perché è più sicura. Molte tranche senior, anche di crediti in sofferenza, perché non è una novità, si è sempre fatto alla fine di una grande recessione, le tranche senior di solito hanno rating AAA. Quindi io mi chiedo dove possa entrare la garanzia della Cassa Depositi e Prestiti, perché se è nella tranche più senior, quella tranche può andare tranquillamente a condizioni di mercato. Non solo, siccome si fanno delle simulazioni statistiche per vedere qual è la probabilità di perdite sui crediti sottostanti alla cartolarizzazione che viene emessa, è chiaro che o la tranche equity e la mezzanina rendono moltissimo e la tranche senior è piccola per essere collocata al rating maggiore, oppure ne sfugge qualcosa. Quindi attendo anch'io con una certa curiosità i dettagli operativi dell'operazione. Quindi, se ho ben capito il suo ragionamento, Seminario, lei dice se tutto deve essere fatto sulla parte più affidabile, la parte senior di queste obbligazioni, già si poteva fare adesso e hanno un ottimo voto, un'ottima affidabilità, non hai bisogno, aggiungo io, di tutta questa garanzia della Cassa Depositi e Prestiti, cioè di pagare la CDP perché garantisca comunque questa tranche. Se i termini sono questi che abbiamo letto, è così. E soprattutto, cioè, bisogna capire qual è la differenza di rendimento tra il senior e le altre, quelle invece meno garantite, perché se non vi fosse una grossa differenza, io immagino resterebbero sul groppone la parte mezzanina e la parte più bassa, se ho ben capito il suo ragionamento. Certo. Sì, probabilmente una garanzia pubblica attraverso la Cassa Depositi e Prestiti potrebbe aiutare comunque a abbassare il rendimento della parte senior, perché è una garanzia ulteriore. E sulle parti invece più a rischio, anch'io devo capire, perché per ora tutti le ipotesi circolate escludevano che la Cassa Depositi e Prestiti potesse garantire anche i crediti, diciamo, più a rischio in questa cartolarizzazione. Mi rendo conto che il tema è un po' tecnico, però possiamo ricordare il Seminario perché è così importante, non solo per le quattro banche che sono state salvate fregando però gli obbligazionisti senior, vedremo cosa concluderà la magistratura, non ci siamo dimenticati, lo dico chi scrive di Popolare Etruria e quant'altro. Adesso la magistratura sta indagando gli ex vertici, sta cercando di capire qual è la responsabilità degli ex vertici e poi eventualmente li rinvierà a giudizio, ma possiamo ricordare l'obiettivo finale qual è, perché io ho detto nei giorni scorsi che secondo me si è arrivati a questo punto per un combinato disposto, ossia negli anni in cui gli altri hanno salvato le banche, Germania, Francia, Spagna, in diversi modi, noi avevamo una politica tutta impegnata a cercare salvare il paese, lo dico col massimo rispetto, lo spread sappiamo dove era arrivato, l'attacco speculativo all'euro, la tenuta del debito italiano e quant'altro, e magari anche a far ripartire il paese, che non aveva voglia di sentirsi dire dalle banche, scusami, abbiamo un problema. Le banche non avevano voglia di dire, hanno continuato a ripetere, le nostre banche sono sane, non abbiamo prodotti derivati, e hanno ignorato il fatto che se un'economia perde il 20% della produzione industriale, le banche ci finiscono in mezzo, che hanno prestato soldi alle imprese, e a mio avviso molti vertici bancari avevano anche l'interesse nel dire che tutto andava bene, ma dava la marchesa, così restavano nel ruolo di presidenti o amministratori delegati. Adesso, se si arrivasse a un accordo, Seminario, che cosa si sbloccherebbe? Perché poi questo interessa chi ascolta, al di là del tecnicismo. Ma se si arriva ad un accordo, si liberano bilanci delle banche, quindi le banche hanno minore fabbisogno di capitale, perché le sofferenze comunque assorbono capitale, e possono a loro volta prestare all'economia più in generale ad un costo inferiore, almeno questo è auspicabile, ammesso che ci sia domanda da parte dell'economia sottostante, perché il mercato è fatto da un incrocio di domanda e offerta. Se l'offerta di credito aumenta e quindi aumenta con, di conseguenza, con tassi offerti sui fidi più bassi, se c'è una corrispondente domanda sottostante, ne trae beneficio tutta l'economia. Questa è un'argomentazione molto teorica e scolastica. Il problema comunque è che da quando c'è stata la risoluzione delle quattro banche, con quel maledetto 17,6% di valorizzazione delle sofferenze, il mondo sospetta del sistema bancario italiano. Perché si dice la copertura è 40%, 48%, quindi tu hai un valore residuo delle sofferenze intorno al 40-45%, sì, ma se valgono in realtà 17, noi bruciamo più o meno tre volte il capitale proprio delle banche, con buona pace di tutti quelli che vanno in giro a dire che le banche italiane hanno parametri di patrimonializzazione, il cosiddetto Common Equity Tier 1, molto alti e confortevoli. Allora, questo è vero nella misura in cui le sofferenze nette iscritte a bilancio valgono la cifra che è iscritta a bilancio. Siccome nessuno certo sa quanto vale realmente il realizzo di quelle sofferenze, sul sistema bancario italiano, a torto o a ragione, aleggia un sospetto. Per cui cioè, lei sta dicendo, se queste sofferenze sono iscritte a bilancio, poni a 100, e tu hai su questo una copertura del 46, perché va bene, perché è la media europea. Il problema è che quando poi queste sofferenze le vuoi vendere, diciamo, le vuoi collocare, se tu le hai bilancio 100 ma riesci a vendere solo a 50, è ovvio che salta, diciamo, non vale più il parametro di copertura e di conseguenza c'è un indebolimento complessivo della struttura patrimoniale della banca. C'è una perdita che viene a scaricarsi sul patrimonio netto della banca, che di conseguenza deve essere ricapitalizzata. Con buona pace, ripeto, dei numeri del Common Equity Tier 1. Quindi quello è il dubbio e l'incertezza. Finché non si risolve quello, non se ne viene a capo. Quindi bisogna capire quanto è veritiero e realistica la copertura delle sofferenze fatta in tutti questi anni dalle banche. E siccome c'è un dibattito anche filosofico, no? Oggi leggevo commenti che dicevano sì, però se non si vengono liquidate in fretta e furia queste sofferenze, cioè si dà il tempo, e anche per quanto riguarda i crediti incagliati, di riportarli in bonus, allora tutto migliora. Però la domanda sorge spontanea: perché non è stato fatto finora? Cioè i crediti incagliati tornano in bonus quando c'è una ripresa economica vigorosa, oltre che un sistema legale che protegge i diritti di proprietà se questi incagli finiscono a sofferenze. L'Italia si sta faticosamente muovendo nella direzione di efficientare il processo di escussione delle garanzie da parte delle banche, ma questi sono risultati e processi che per manifestare risultati richiedono molto tempo, e improvvisamente abbiamo scoperto che non abbiamo più tutto questo tempo. Io non ho altro da aggiungere, Seminario, perché mancando qualunque notizia da Bruxelles, evidentemente sta andando avanti più a lungo del previsto l'incontro tra Padoan e la Vestager, non voglio fare speculazioni sul nulla, non è nello stile di questo programma, aspettiamo la notizia. A questo punto chiarissimo il suo ragionamento e ringrazio quindi anche Mario Seminario, ringrazio tutti gli ascoltatori e auguro buona serata. Noi ci risentiamo domani a questo punto con una risposta fattuale sull'accordo, come immaginiamo noi e speriamo noi, o il non accordo. Intanto buona serata, Focus Economia torna domani alle 17. Radio 24, la passione si sente.